Stavo guardando le statistiche, ho solo fan uomini e i dischi si vendono conquistando le donne. Ma dobbiamo recuperare, sennò siamo nella merda. Sarà per Masturbation o tutti gli altri singoli? Sarà che ho fatto video troppo equivocabili? Tra le mie percentuali ci sono solo uomini. Ma strano perché... Donne, io vi amo tutte quante. Donne, io vi amo tutte quante. Benvenute nel mio mondo magico, dove il sesso si fonde col tragico, evitando di usare parole che provino a esprimere l'amore più tacito. E qualora voi non mi gradiste, potrei comprare le mentine per l'alito. Altrimenti sarebbe buon uso che voi vi faceste un bagnetto nell'acido. Dottor Capis, c'è convinte, adesso siamo con te. Dottor Capis, c'è convinte, adesso siamo con te. Dottor Capis, c'è convinte, adesso siamo con te. Dottor Capis, c'è convinte, adesso siamo con te. Donne, io vi amo tutte quante. Donne, io vi amo tutte quante. Bastava una canzone solo più romantica. Bastava più attenzione alla mia forma fisica. E adesso loro sono con me, io vi amo. Benvenute nel mio mondo ermetico, dove il triste si fonde col comico, dove provo in continuo a nascondere il mio incontenibile istinto poetico. Non vorrei, continuando a reprimerlo, possa rischiare di restare estitico. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dottor Capis, c'è convinte, adesso siamo con te. Dottor Capis, c'è convinte, adesso siamo con te. Dottor Capis, c'è convinte, adesso siamo con te. Dottor Capis, c'è convinte, adesso siamo con te. Donne, io vi amo tutte quante. Donne, io vi amo tutte quante. Donne, io vi amo tutte quante. Donne, io vi amo tutte quante.